Perfetto Giorno di Simone Spezia. Si è dimesso il presidente della Federcalcio, Tavecchio, colpa dello sciacallaggio politico, dice. Ostia Di Pillo dei 5 Stelle vince le elezioni per il municipio, governeremo con regole ferre. Candidatura per EMA, si ritirano Dublino, Malta e Zagabria, la partita vale 1,5 miliardi. Germania salta il tentativo di formare il governo, tra le ipotesi il ritorno al voto. Manovre e pensioni, Gentiloni richiama i sindacati, condividano lo sforzo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, la nostra e quella di Radio 24, se volete potete commentare anche là, dall'altra parte del vetro Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, iniziamo dunque e buon inizio di settimana a tutti. Dalle dimissioni di Carlo Tavecchio. Carlo Genta, ciao. Buon inizio di settimana a tutti con le dimissioni del presidente federale Tavecchio. Non è una notizia non inattesa, se ne parlava già da un paio di giorni. Consiglio federale appunto convocato per questa mattina, è iniziato a mezzogiorno ed è uscita poco fa, abbiamo fatto anche la breaking news, la notizia sulla notizia delle dimissioni del presidente federale Carlo Tavecchio, che non godeva più del sostegno di alcune componenti fondamentali e quindi così è stato, così è andata, ora si aprono scenari al momento non facilmente prevedibili. Allora, la situazione è questa, il presidente pro tempore è il presidente vicario Sibilia e dovrebbe avere 90 giorni per indire nuove elezioni. Va detto che mentre la Federcalcio non era commissariabile in precedenza, ora con le dimissioni del presidente federale sarebbe commissariabile da Malagò. Però ragioniamo sempre in termini ipotetici, questo è ciò che dice. Sì, vedremo che cosa può succedere. Nel frattempo abbiamo un Tavecchio che dice: ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato. Insomma, no? Non ho ancora sentito queste dichiarazioni, me le leggi tu per la prima volta perché siamo in attesa appunto di sentirlo, di capire che cosa dirà. Sono tutte cose che stanno accadendo in questo momento, dunque sì. Prendiamo per buone queste dichiarazioni, è chiaro che è uno scenario eminentemente politico, no? Sì. vediamo ora che cosa succede. Dovremo trovare un nuovo presidente federale che elegga un nuovo, che nomini un nuovo commissario tecnico, insomma si riparte da zero. La pancia degli italiani è stata soddisfatta, speriamo che lo sia anche la ragione calcistica, la ragione di stato calcistica, Simone. Allora Carlo, grazie, è tutto materiale ottimo direi a questo punto per tutti convocati a partire dalle 14 dopo comunque un fine settimana di campionato. Noi adesso cambiamo decisamente argomento e andiamo a parlare della candidatura italiana per EMA, per l'Agenzia Europea per il Farmaco, perché si decide oggi. Livia Zancaner, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, alle 17 inizieranno le votazioni sulle nuove sedi di EMA, autorità per i medicinali, e anche di EBA, l'autorità bancaria, da parte dei 27 paesi membri dell'Unione, tutti tranne Londra ovviamente. Il meccanismo è complesso, ricordiamo, passa da 3 votazioni segrete più un sorteggio finale in caso di ex aequo. Per EMA dunque le città candidate sono scese a 16 dopo il ritiro sul finale di Malta, Zagabria e Dublino. Tra le favorite c'è anche Milano ovviamente, che soddisfa pienamente i requisiti richiesti dal bando. Così sentiamo il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi arrivando questa mattina al Consiglio europeo. Partita aperta, la giochiamo sul filo di lana, però credo che Milano sia una ottima candidatura, ci sono altre buone, vediamo un po', il voto è segreto quindi. La decisione dipenderà anche dagli accordi dietro le quinte tra i leader degli stati membri dell'Unione e da una serie di equilibri a partire dalla nomina del nuovo presidente Eurogruppo il 4 dicembre. La vittoria fa sicuramente gol a molti. Per EMA si parla di un giro d'affari di 1,5 miliardi l'anno per un incremento dei consumi sul territorio milanese di 60 milioni già il primo anno. Ed è tutto. E grazie Livia Zancaner, ovviamente vi aggiorneremo nell'arco della giornata sulle decisioni che arriveranno a proposito dell'EMA, e ci torneremo tra l'altro anche in Focus Economia e nei nostri giornali radio. Veniamo alla politica, che ci parla soprattutto questa mattina di Ostia che è andata al voto, scarsa partecipazione, ha vinto Di Pillo dei 5 Stelle. Dopo 31 mesi di commissariamento per mafia, Ostia ha di nuovo il suo mini sindaco. La pentastellata Giuliana Di Pillo, ex insegnante di sostegno di una scuola media, ha sconfitto con il 60% dei voti la sua rivale Monica Picca di Fratelli d'Italia, sostenuta da una coalizione di centrodestra. La parte del leone però ieri l'ha fatta l'astensionismo, solo un cittadino su tre è infatti andato a votare. I romani sono con noi per il cambiamento, esulta su Twitter la sindaca di Roma. L'effetto raggio esiste ed è positivo, commenta Di Maio, così la Di Pillo. Io dico che noi dobbiamo lavorare per far sì che appunto tutti i cittadini riacquistino l'amore nei confronti dell'istituzione, la fiducia nei confronti dell'istituzione. Ma il centrodestra attacca, hanno vinto con i voti di Casa Pound e degli Spada, Monica Picca. Basta fare un'analisi, se voi vedete i voti all'idroscalo noi abbiamo perso, loro hanno credo acquistato circa 1000 voti, quindi insomma l'analisi è presto fatta. Oggi nessuna polemica, guardiamo al futuro, lasciamo la Picca alle sue illazioni. La secca risposta del capogruppo del Movimento 5 Stelle di Roma, Paolo Ferrara. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E più avanti nel nostro Giro d'Italia torneremo a parlare di Ostia, lo faremo con Domenico Vulpiani, prefetto, la persona che ha guidato da commissario il municipio di Ostia negli ultimi 2 anni e mezzo, per farci dare un'idea di qual è l'eredità che lasciano e che cosa augura, che cosa prospetta per gli amministratori in arrivo. La manovra, il punto di oggi, soprattutto il tema è quello delle pensioni, Vincenzo Miglietta, no? Sì, buongiorno Simone, è così e non si presenta l'ora in discesa, il nuovo incontro sulla previdenza fissato per domani. Ricordiamo che in ballo c'è una revisione chiesta dai sindacati dell'automatismo previsto dalla legge Fornero che fissa l'innalzamento a 67 anni dell'età pensionabile dal 2019 in virtù dell'adeguamento all'aspettativa di vita. Palazzo Chigi ha aperto allo stop per alcune categorie di lavoratori, per la CGIL tuttavia non è sufficiente, senza correzioni su giovani e donne non firme Firmeremo l'accordo, avverte la Camusso, siamo pronti alla mobilitazione contro quella che la leader CGIL chiama la rincorsa perenne dell'aspettativa di vita. Da ricordare che il fronte sindacale appare diviso, per la CISL quelli raggiunti con il governo sono risultati importanti, in mezzo la UIL che lavora per un compromesso teso soprattutto all'unità sindacale. La partita pensioni insomma è complessa perché si gioca su più fronti legati tra loro, le poche risorse a disposizione che non possono essere incrementate, pena il veto di Bruxelles. Ma c'è anche il fronte politico con i partiti già in campagna elettorale e ormai chiaramente schierati, sinistra e Lega insieme con la CGIL, Berlusconi che promette l'aumento delle pensioni minime e un ministero ad hoc per la terza età. Tutte istanze queste che troveremo nel dibattito parlamentare che accompagnerà da domani la legge di bilancio e che potrebbero modificare l'eventuale intesa che l'esecutivo troverà domani anche con una sola parte del sindacato. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Altra politica, quella tedesca, non si trova un accordo per la formazione del nuovo governo. Siamo in linea con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, per capire, soprattutto Alessandro, buongiorno, che cosa può succedere a questo punto. Beh, ci sono diverse opzioni e nessuna di queste è facile da percorrere. La trattativa fra i partiti che dovevano comporre la coalizione di governo è saltata nel corso della notte, dopo un negoziato molto lungo, molto difficile, molto aspro. La palla è in mano al Presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, che infatti alle 14.30 ha annunciato che farà una conferenza stampa per illustrare quali saranno i prossimi passi. In sintesi, si potrebbe cercare di recuperare al tavolo della trattativa i liberali, che hanno interrotto i colloqui stanotte, insieme ai democristiani e ai verdi, l'originale idea di coalizione. Si potrebbe tentare di fare un bis della grande coalizione dell'ultima legislatura, cioè fra democristiani e socialdemocratici. Si potrebbe tentare ancora un governo di minoranza a guida democristiana, oppure andare a nuove elezioni. Ma tenuto conto che queste ultime due opzioni sono senza precedenti nella politica tedesca del dopoguerra, e nuove elezioni vorrebbero dire probabilmente anche un forte aumento dei consensi per il partito anti-euro, anti-immigrati, Alternativa per la Germania, che a settembre ha avuto oltre il 12% dei voti. Quindi varie opzioni, nessuna di queste facili e nessuna di queste di grande appeal politico. Io ti ringrazio, grazie ad Alessandro Merli per questo aggiornamento appunto dalla Germania, tema che ovviamente anche questo torneremo a trattare nell'arco della giornata. La cronaca italiana con lo sgombero dell'ex villaggio olimpico di Torino. Sono cominciate stamattina le operazioni di sgombero nelle palazzine dell'ex MOI, il villaggio olimpico, costruito nel 2006 e da 4 anni occupato da 1 migliaio di profughi, la maggior parte di origine africana. In questa prima fase saranno liberate le cantine, dove in condizioni igieniche precarie fino a stanotte hanno trovato riparo almeno una 50ina di persone, che saranno ora trasferite in alcune strutture messe a disposizione dalla diocesi di Torino. A seguire le operazioni anche il presidente della circoscrizione 8, Davide Ricca. La gente chiede sicurezza, certezza e soprattutto cerca di capire che cosa ne sarà di questa zona, perché questa zona doveva subire e subirà delle grandi trasformazioni che renderanno migliore questo quartiere, però al momento quello che si vede è una situazione difficile sia per il quartiere sia per le persone che occupano e vivono in situazioni di degrado e inumane. La decisione di liberare i locali seminterrati fa seguito all'incendio che un mese fa ha distrutto una delle palazzine. Per motivi di sicurezza la sindaca Appendino, in accordo con il questore Sanna e il prefetto Saccone, ha ordinato lo sgombero che, secondo i piani del comune, dovrebbe concludersi nel 2020. Marco Panzarella, Radio 24, Sole 24 Ore, Torino. Restiamo in Piemonte, dove è sta entrata in vigore, dopo essere stata approvata 18 mesi fa, la legge contro le ludopatie, che potrebbe portare all'eliminazione di macchinette, di videoslot e via dicendo, all'eliminazione di 20.000 su 29.000 videoslot in 1.200 comuni, cioè 2/3 del totale. Spegnimento nei locali, bar e tabaccheria a meno di 500 metri da scuole, oratori, centri sportivi, parchi, chiese, ospedali, stazioni, banche. Si rischiano da 2 a 6.000 euro di multa macchinetta. Il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta dice: prendiamo atto che il Piemonte ha imboccato la strada funesta del proibizionismo, l'azzeramento aggiunge un favore alla criminalità organizzata. Katia Caramelli ha intervistato Monsignor Alberto D'Urso, che è presidente della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II. Certamente è una legge migliore rispetto sul piano regionale, rispetto a quella concordata che è stato siglato tra Stato e Regioni del mese di settembre. Non mi meraviglio se ci troviamo adesso con delle normative diverse da quell'accordo sul piano regionale. Perché? Perché i governatori man mano si stanno rendendo conto non era da firmare quell'accordo. Non è vero secondo noi che se si limita ancora di più l'accesso all'azzardo ci sono conseguenze negative per l'economia. Per noi meno azzardo c'è, più l'economia guadagno. Meno azzardo c'è, più la salute degli italiani è tranquilla, perché l'azzardo produce conseguenze negative e sull'economia e sulla salute. Cosa prevedeva, mi scusi, quell'accordo che non andava bene? Mentre concedeva alle regioni e con le possibilità di poter intervenire, poi dopo queste possibilità le restringeva. C'erano dei compromessi sia sulle distanze sia sulla pubblicità ingannevole, che per esempio non veniva affatto più evidenziata. Potrebbero essere ancora vive le persone all'interno di un sottomarino con il quale si sono persi i contatti. Le ricerche proseguono. Continua la drammatica corsa contro il tempo per cercare di ritrovare il sottomarino argentino San Juan, disperso da mercoledì scorso mentre stava navigando a 400 km dalle coste della Patagonia con 44 membri dell'equipaggio. Tra questi anche il primo ufficiale donna del Sud America a bordo di un sommergibile alla sua prima missione. Le operazioni di ricerca sono rese ancora più complesse dalle pessime condizioni climatiche dell'Atlantico meridionale, con raffiche di vento oltre i 90 km orari e onde alte fino ad 8 metri. Le ricerche sono ormai internazionali. Oltre a una mezza dozzina di navi argentine sono coinvolti infatti aerei e navi di Regno Unito, Cile, Brasile, Uruguay e Stati Uniti. Ieri la giornata era partita con un segnale di speranza, ma a metà pomeriggio un comunicato della Marina argentina spiegava di non avere certezze che i 7 tentativi di chiamate partiti da un satellitare provenissero dal sottomarino alla deriva. Questa vicenda riporta alla mente la tragedia del Kursk, un sommergibile atomico russo che venne inghiottito dal mare di Barents con i suoi 148 18 uomini d'equipaggio il 12 agosto del 2000. Ma lunga è la catena di incidenti e morti meno nota. Almeno altri 6 sottomarini nucleari sono finiti in fondo al mare. 2 americani, 3 russi e 1 cinese. Uno statunitense si inabissò davanti a Boston nel 1963 con 129 uomini di equipaggio, sembra per un cedimento strutturale. Un altro sommergibile USA si inabissò per motivi ignoti vicino alle Azzorre. A bordo 99 uomini e 2 bombe atomiche andate perdute. 3 sottomarini nucleari russi sono affondati, uno nell'86 per l'esplosione di un siluro a bordo, uno nel 70 per un incendio del reattore e uno nell'83 per un incendio. Mistero infine sul sommergibile nucleare cinese scomparso nell'85 con tutto l'equipaggio e il suo armamento atomico. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. Giro d'Italia che ci porterà, come abbiamo detto, a Ostia e poi rimarremo a Roma. Avrete sentito, se non l'avete sentita, insomma, la puntata del venerdì, di venerdì scorso, nella quale abbiamo parlato del liceo Virgilio di Roma, che a quanto pare continua a campeggiare sulle prime pagine dei quotidiani, perché è successo di tutto, ci si vende un po' di droga, sono esplosi dei petardi o delle bombe carta durante la ricreazione, è girato un video di sesso nei bagni tra 2 studenti, c'è grande polemica, addirittura ieri il dirigente scolastico regionale diceva il Virgilio, che è un liceo classico nel centro di Roma, andrebbe chiuso. Qual è il tema? Il tema è che si scontrano la preside e una parte dei genitori che dice sono ragazzate, e la preside che dice io chiamo le forze dell'ordine. Venerdì abbiamo sentito la preside, oggi sentiamo i genitori. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta anche video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle dimissioni del presidente della Federcalcio, del voto a Ostia, della candidatura per l'Agenzia Europea per il Farmaco, della Germania nella quale è saltato il tentativo di formare il governo, di manovra e di pensioni. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia e iniziamo da dove l'abbiamo interrotto la settimana scorsa, venerdì, quando abbiamo sentito, ve lo dicevo poco fa, la preside del liceo Virgilio di Roma. Siamo in un liceo nel pieno centro della capitale e al centro, tra l'altro, di qualche polemica negli ultimi giorni per il comportamento assunto da alcuni studenti all'interno della scuola. Bombe carta durante la ricreazione, durante l'occupazione, riprese di 2 ragazzi che fanno sesso all'interno della scuola e poi diffuse su WhatsApp, e soprattutto una polemica che si incentra su alcuni genitori, una minoranza, ci ha detto la stessa preside, che difendono il comportamento dei ragazzi. Daniela, buongiorno, è presidente del consiglio d'istituto, abbiamo sentito venerdì la preside, sentiamo l'altra parte, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Ci sente? Io non sono, sì, la sento benissimo, non sono l'altra parte, sono dalla parte della scuola, oltretutto, diciamo, ho sempre dato, io e i 3 consiglieri di quest'anno, perché siamo stati eletti l'anno scorso, il mio massimo disponibilità e aiuto alla preside. E il giorno, per citarne uno, la sera che hanno occupato, io ero con la preside fino alle 11:30 di sera e in tutti i giorni dell'occupazione io sono stata spessissimo con lei, cercando di darle per quello che potevo fare, evidentemente, tutto il mio aiuto, il mio supporto e la mia disponibilità. Sì. Quindi, che io vorrei chiarire che non sono in contrapposizione alla preside Alfano, tutt'altro. Sì, però l'impressione che diciate sia un po' esagerato, no, su questa allora, storia. Ho premesso questo, però dico che questi sono fatti, io non voglio, oltretutto mi astengo da qualsiasi commento, da qualsiasi diciamo aggettivo sia stato dato a dei fatti. I fatti sono che sono scoppiati 2 petardi o bombe carta, sono fatti. I fatti si dice che c'è stato questo video, le devo dire la verità, hanno fatto a scuola, i ragazzi sono passati classe per classe per chiedere chi l'avesse visto, io non l'ho visto, nessuno lo ha visto materialmente, io non ne ho avuto copia. Mi scusi, faccio l'avvocato. No, ma è giusto, è comprensibile. Riesco a parlare solo di cose che ho visto, solo di cose che ho dinanzi a me. Ritengo giusto, se ovviamente che la presido, chi per lei naturalmente l'abbia visto, che l'abbia evidentemente portato immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, perché credo che quelle siano le sedi giuste, corrette, legalmente individuate per poter iniziare un'indagine. Il problema è che questi fatti non sono andati, non sono stati discussi e trattati nelle sedi giuste, ma sono state trattati sui giornali. Quindi ce l'ha per il fatto, mi sembra di capire, che lei abbia perplessità o sia contraria al fatto che la preside sia andata innanzitutto sui giornali e nel nostro caso anche in radio, evidentemente, a raccontare quello che è avvenuto Io, in quel liceo. Ripeto, le ho dato la mia massima disponibilità e ho il massimo rispetto per la preside Alfano e soprattutto per il ruolo che evidentemente ricopre. Sì, non sono d'accordo molto sul fatto, perché proprio per principio personale, per il lavoro che ho sempre svolto, ritengo che i processi si facciano in altre sedi, non si fanno sui giornali, non si fanno sulla stampa. Ma tutto c'è, ci sono... mediatica, tutta questa pressione mediatica non ha e non aiuta il Virgilio, si è solo parlato di questo. Si dimentica sempre che Virgilio è al primo posto nella classifica della Fondazione Agnelli come il miglior liceo scientifico per i risultati ottenuti dai ragazzi nelle istituzioni universitarie, che abbiamo dei report quando i nostri ragazzi dell'internazionale vanno in Francia e in Spagna, ottimi da quelle scuole, ed è tra i primi licei classici sempre individuati nella lista della Fondazione Agnelli. Con questo non voglio diminuire né raccontare. È chiarissimo, però non le nascondo che il vero tema, che lo vedo anche dai messaggi che ci stanno arrivando dagli ascoltatori, il vero tema che c'è di sottofondo è il giustificazionismo che c'è stato da parte di alcuni genitori ai comportamenti dei ragazzi, no? Molti ascoltatori ci dicono: vedete, quando è così è questo il male della scuola alla fine, no? Genitori che difendono i ragazzi ad oltranza quando anche quando allora, sbagliano. Guardi, dinanzi a me, diciamo, se qualche volta c'è stato, io ho risposto e ci sono stati chiaramente dei casi isolati, ovviamente. Nella realtà, diciamo, nella massima parte a me non si palesano, perché sia io ma tutti e tre i consiglieri d'istituto abbiamo chiarito molto spesso nell'anno trascorso, che è stato anche evidentemente anche molto molto tranquillo, e sempre la nostra disponibilità, intanto la nostra avversità al fumo della scuola, dalle cose più semplici alle cose più gravi, ma la nostra disponibilità, il nostro supporto alla scuola affinché oggettivamente si prendessero sempre provvedimenti disciplinari in queste situazioni. Lei capisce bene, io non sto nella scuola, io sono un genitore, presidente del consiglio d'istituto. Quello che posso fare insieme con i consiglieri, l'istituto dei genitori, è supportare la scuola in questo. Dire: prego preside, prenda gli opportuni provvedimenti disciplinari. In una scuola questo si può fare, non è che si possono fare le indagini penali a scuola. Voglio dire, questo è quello che io, il supporto e l'aiuto che ho sempre detto. In alcuni casi si possono fare anche le indagini penali, insomma, quando è necessario. Questo è ovvio. Insomma. Possono partire da lì, ma non li può fare la scuola, li fanno le persone competenti. Sì, no, ovvio. Sì, no. Siamo capiti. Certo, era per uscire dalla... dall'ambiguità. È ovvio, certo. Ma voglio dire, io più che... con gli altri consiglieri dire abbiamo detto no, l'abbiamo chiarito a tutti i genitori. Poi lei capisce bene, noi siamo 2600 genitori. Se tra quei 2600 genitori ci sono, come sicuramente ci saranno, dei genitori che giustificano, ma io non... Ovviamente non ne risponde lei, ma è chiaro, questo è evidente. Io la ringrazio. Ma abbiamo tutta la scuola, questo ovvio, è molto importante. Io la ringrazio, grazie a Daniela Buongiorno, Presidente del Consiglio d'Istituto, per essere stato con noi, del Virgilio, e speriamo che sia chiusa qua questa vicenda del Virgilio. Come abbiamo detto, qualcuno diceva nel fine settimana, scriveva: chiudiamola, addirittura chiudiamo il Virgilio, ci saranno problemi presumibilmente nell'Open Day. Invece a Carlos, che ci scrive sulla pagina Facebook tra i commenti della nostra diretta video: questa roba qui è responsabilità di quelli della buona scuola e di quelli che continuano a tagliare il personale? No, sinceramente non mi sembra proprio che abbia a che fare con la riforma della scuola, che avrà altre responsabilità, avrà creato altri problemi, ma non certamente questo, che è una cosa che attiene specificatamente ovviamente ai ragazzi, a come si comportano e in parte ai loro genitori. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci troviamo poi subito dopo e avremo una breve intervista con quello che è stato fino adesso il commissario di Ostia, cioè la persona che ha guidato il comune di Ostia. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: si è dimesso il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, inviterà tutto il Consiglio federale a lasciare. Ostia di Pillo, 5 Stelle, vince le elezioni comunali, scarsa l'affluenza. Candidatura per EMA, si ritirano Dublino, Malta e Zagabria. La partita vale 1,5 miliardi per Milano e l'Italia. Germania salta il tentativo di formare il governo tra le ipotesi, il ritorno al voto. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Come sapete, la puntata del lunedì è un po' più corta, abbiamo pochi minuti, ma giusto il tempo per tornare ad accendere i riflettori su Ostia. Ostia, dove si è votato ieri, come sapete ha vinto la candidata del Movimento 5 Stelle, come vi abbiamo raccontato. Ostia, che è un municipio enorme, fa 250.000 circa abitanti, e vogliamo tornare là parlando con Domenico Vulpiano, che è un prefetto ed è stato il commissario di Ostia fino adesso, negli ultimi 2 anni e mezzo, dopo lo scioglimento per mafia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Cosa lasciate in eredità all'amministrazione di questo municipio? Lasciamo intanto un municipio in grado di funzionare, con una squadra che è stata ricostituita dopo i tagli che ci sono stati, sia per trasferimenti sia soprattutto per l'intervento della magistratura prima del nostro arrivo. Sono stati degli arresti, sono state delle denunce, non abbiamo rodato il personale, abbiamo rimesso in moto la macchina, in qualche modo vogliamo usare una metafora. Dopo aver calcistica, che forse è più comprensibile, i giocatori c'erano, andavano almeno quelli bravi riposizionati e messi in grado di lavorare con tranquillità, e soprattutto abbiamo impedito a coloro che facevano pressioni sul municipio, sulle forze sane del municipio, anche con intimidazioni, con atti di prepotenza, di entrare dentro il municipio. C'è il rischio che i clan tornino a rialzare la testa, intendiamo questo, che in genere in questi casi, soprattutto in situazioni locali, la politica tende ad essere un po' più debole di un commissario, di un prefetto, di una persona messa là dallo Stato. Non c'è dubbio che noi abbiamo, non dobbiamo ricercare il consenso elettorale, perché siamo nominati dallo Stato, quindi è un periodo di transizione che è durato 2 anni e mezzo, adesso la parola torna alla politica. Quello che io mi auguro è che la politica non accetti compromessi, soprattutto verso questi soggetti, o soggetti che sono in odore di criminalità, di mafia o altro. Bisogna mantenere a barra dritta, se si vuole governare un municipio bisogna avere anche il coraggio di farlo, dicendo qualche no a coloro che ti chiedono di fare delle cose che non sono nella legalità. Il segnale più doloroso forse, Vulpiani, è quello che è arrivato dalla partecipazione al voto, tanto quella del primo turno e poi conseguentemente quella del secondo turno. Lo ricordiamo, ieri ha votato il 33% degli aventi diritto, un terzo degli aventi diritto. È un brutto segnale anche in termini di partecipazione, no, a questo voto. Sì, dà fastidio, soprattutto dà fastidio nel primo turno, perché là si trattava da parte della popolazione del 10° municipio, che ricordiamo sono 240.000 abitanti, di scegliersi chi li dovesse amministrare proprio a livello locale, quindi era importantissima la partecipazione, perché così nelle regole della democrazia prevale chi ha più voti, ma se il 70% non ha votato, 65% non ha votato, vuol dire che è mancata questa volontà di scegliere i propri amministratori, quindi questo ha dato fastidio, perché quando siamo arrivati noi abbiamo avuto da più parti pressioni affinché si tornasse subito al voto. Non andare al voto è stata una delusione per noi, vedere che la gente non è andata al voto. Grazie a Domenico Vulpiano. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.